è bello, stira tanto sentimento, dimmi tu che ti vieni a mente, che città tu fai su mare, guardi da qua chi studia vivo, se il tesisti scura la profuma tutti mio di me tuo cuore se ne va ma tu dici a parito Dio dai un cane dal tuo cuore dai la terra dell'amore pieno serene che tesoro tiene il fumo che ha girato tutto il mondo non l'ha vista come qua guarda attorno a sti serene che te guarda noi di cantare voglio tanto bene se volesse l'uomo ma tu dici a marito Dio dai un cane dal tuo cuore dai la terra dell'amore pieno quando sponta la luna marchiar fuori bisciance fanno l'amore se revotano l'onne del mare per la priezza e cagnano colore quando sponta la luna marchiare a marchiare non carrova nel dono io di dono testa passa l'acqua per sotto murmureia a marchiare in cesta la finestra oh, oh, oh. Dice che le stelle son lucente, non sa questo chi è caduto viene in fronte. Direi stelle ha sulla mente, in tale cuore ne tengo di ponte, chi dice che le stelle son lucente. Scendate, caruni, cagliari, e i doce, quanto mai, tanto tempo hai aspettato, fa compagnia di suona, con una voce, stasera la chitarra già portato. Scendate, caruni, cagliari, e i doce,